Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dopo aver fatto perdere quasi 5 miliardi di euro alla Société Générale, Jérôme Kerviel tira in ballo 67 dirigenti della società, accusandoli di essere stati a conoscenza delle sue operazioni finanziarie. Jérôme Kerviel, nato l'11 gennaio 1977 a Pont-l'Abbé, Finistère, Bretagna, master all'Università di Lione II, sospettato di aver fatto perdere 4,9 miliardi di euro alla Société Générale nel 2008. Chi è veramente? Un imbroglione, un truffatore, un terrorista? Secondo l'infelice definizione di Daniel Bouton, ex amministratore delegato della banca. Oppure Robin Hood della finanza, quasi una vittima, come è riuscita a far credere, in un primo momento, la strategia difensiva del suo avvocato. Un ragazzino che ha scambiato le schermate Reuters per un Game Boy, a sentire una persona che lo conosce bene? O al contrario, uno psicopatico aziendale, secondo i suoi nemici più accaniti? Difficile dirlo, perché la personalità di Jérôme Kerviel è infinitamente più complessa. È da poco trascorso un anno da quando il 25 gennaio 2008 è scoppiato l'affaire Société Générale e il Jérôme Kerviel che probabilmente dovrà comparire davanti al giudice sicuramente non è lo stesso di quando è cominciata questa storia. In un anno, l'uomo che ha rischiato di mandare in bancarotta la Société Générale è diventato un'icona mediatica. Dopo l'inizio dello scandalo, gestisce la sua immagine professionalmente con l'aiuto di un addetto stampa. Se si eccettua un'unica intervista, rilasciata all'agenzia France Press all'inizio dell'istruttoria, non c'è stata nessuna comunicazione pubblica, ma foto in pose da Golden Boy o foto rubate per finta sulla terrazza di un caffè con i suoi avvocati. Attento alla sua immagine, guarda ogni giorno su internet quello che dicono di lui, afferma uno del suo entourage. Oggi però Jérôme Kerviel si dice deluso dai giornalisti che incontra microfoni spenti e che non capiscono nulla di questo caso tecnico e complesso. I magistrati? Anche con loro non è tenero. L'ex agente di borsa ha l'impressione che l'indagine abbia tralasciato l'essenziale, che i magistrati Renaud Van Ruimbeke e François Dessé si siano accontentati della sua confessione per non doversi mettere a cercare le eventuali colpe della banca. A un certo punto ha perso la pazienza e convinto che i giudici non abbiano fatto uno sforzo per capire, ammettono quelli del suo entourage, mentre tutta la sua vita è scandita dall'istruzione, è la sua ossessione. Improvvisamente il ragazzo gentile e un po' fragile degli inizi è cambiato. Dopo l'estate è apparso cocciuto, determinato, per non dire arrogante. Passa ore e ore da solo insieme ai suoi avvocati e al suo addetto stampa, immerso nel dossier che conserva sempre nel suo ufficio. Quando si presenta per la prima volta davanti al giudice istruttore, a inizio febbraio dello scorso anno, il giovane uomo di bella presenza sembra però totalmente assente. Ai poliziotti che lo interrogano contrappone un volto liscio, senza emozioni. Un'incredibile padronanza di sé, quasi disumana, racconta ora una fonte vicina al caso, considerando che nel giro di 15 giorni il trader aveva subito uno sconvolgimento totale della sua esistenza. Il 28 gennaio venne iscritto nel registro degli indagati per appropriazione indebita, stampa e spaccio, intrusione fraudolenta in sistemi di dati informatici. 4 giorni prima, la Société Générale aveva annunciato di aver perso 4,9 miliardi di euro e aveva attribuito questa truffa di colossali proporzioni a un uomo solo, lui, Jérôme Kerviel. Le cifre sono allucinanti. Nonostante fosse autorizzato a effettuare transazioni sui mercati solo fino a 250 milioni di euro, arriva a giocarsi fino a 50 miliardi. Una somma che la banca è ben lontana dal possedere, perché all'epoca il patrimonio netto dell'istituto raggiunge appena i 35 miliardi di euro. A fine 2007, Kerviel ha guadagnato in segreto 1,4 miliardi di euro. Lui, col suo semplice master, la fa in barba agli altri broker, gente uscita dalle migliori scuole. Descritto al momento del suo arrivo alla Société Générale nel 2000 come una persona discreta e taciturna, è rimasto solo 2 anni al middle office prima di essere nominato assistente agente di borsa e poi agente di borsa nel 2004. Una promozione fuori dal comune. ma capisce in fretta che farà fatica a imporsi in quell'ambiente dove il diploma iniziale conta almeno quanto il curriculum e le competenze, se non di più. E allora ha giocato, sicuro di aver trovato un metodo infallibile, e ha perso. Sperava di passare per un trader d'eccezione, dirà di lui il procuratore di Parigi Jean-Claude Marin. Il vissuto dominante di Kerviel è la gratificazione, finanziaria, professionale e personale, spiegherà la perizia psichiatrica, che tuttavia riscontrerà in lui soltanto un'intelligenza medio-alta. Soprattutto, Jérôme Kerviel è un uomo solo che ha bisogno di riconoscimento, confida una delle persone a lui vicine, e ha un vero talento per ottenerlo, questo riconoscimento. Jean-Raymond Lemaire, esperto di diritto e proprietario di una società di consulenza informatica, fin dall'inizio dello scandalo gli ha dato ospitalità e lo ha assunto nella sua azienda. 5 giorni prima neanche lo conosceva. Ancora oggi Lemaire dice di non capire bene chi è veramente Jérôme, ma lo sostiene, lo consiglia. Anche i giudici all'inizio non volevano credere che quel ragazzo dall'aria tanto sola fosse il mostro di cui parlava la Société Générale. Rifiutano di imporgli la carcerazione preventiva, nonostante gli strepiti della banca, che teme la fuga del giovane trader. Alla fine, l'8 febbraio, Kerviel viene messo in prigione, poi rilasciato il 18 marzo. Nel frattempo la macchina mediatica si scatena e quello che sarebbe dovuto rimanere l'affaire Kerviel diventa l'affaire Société Générale. La banca può prendersela solo con se stessa, stigmatizzando il semplice stipendiato venuto dal nulla, ha contribuito a creare la sua leggenda. A luglio, forte della sua aura mediatica, Jérôme Kerviel decide di cambiare repentinamente tattica, congedando senza alcun riguardo la sua avvocatessa, che lo aveva sostenuto fino a quel momento. Kerviel ha capito che i magistrati si apprestavano a chiudere l'istruttoria rinviandolo a giudizio per intrusione fraudolenta in un sistema informatico. Lui, pur avendo riconosciuto fin dal primo momento la sua parte di responsabilità, non vuole essere il capro espiatorio della Société Générale. Con i suoi nuovi avvocati passa a una strategia più offensiva. Il Kerviel gentile, riservato, vittima, lascia il posto a un Kerviel re della finanza, sicuro di sé, e l'università di Harvard gli avrebbe proposto di tenere dei corsi. Secondo Jérôme Kerviel, la banca non poteva ignorare le sue attività. Il rapporto dell'Ispettorato Generale della Société Générale e successivamente quello della Commissione Bancaria, la Consob francese, hanno messo l'accento su gravi inadempienze nelle procedure di controllo, ma non hanno parlato di complicità attiva da parte della banca. Jérôme Kerviel non demorde. Loro sapevano. L'ultima mossa è stata inviare ai magistrati uno schema con 67 dipendenti della Société Générale che secondo lui sono stati messi al corrente del volume delle transazioni tra il 2005 e il 2008, ma non ha convinto i giudici. Alle ultime audizioni però Kerviel sembra aver ceduto alla stanchezza. Sta seduto, piuttosto rannicchiato in posizione fetale, giocherella con la sua stilografica. Il processo non dovrebbe svolgersi prima del 2010. Una volta finito, l'ex trader afferma di voler tornare all'anonimato, ma prima di ritornare a essere il signor nessuno, sarà stato Jérôme Kerviel. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Valérie de Saint-Ville, Enigma Kerviel, dal numero 6 febbraio 2009 del mensile Il Intelligence Lifestyle, venduto in abbinamento al Sole 24 Ore. Sorpassato da altre forme di denaro virtuale, il vecchio assegno è ormai quasi definitivamente scomparso. L'assegno in Gran Bretagna ha compiuto 350 anni e dopo oltre 3 secoli di onorato servizio, con l'avvento delle tecnologie telematiche, l'industria del consumo ha escogitato altri mezzi per finalizzare acquisti e transazioni. Il lungo addio dell'assegno è iniziato. Tra carte di credito, bancomat, telefonini ed internet, quei pochi che ancora sanno cos'è il libretto degli assegni fanno fatica a ricordare dove diavolo l'hanno cacciato. Un rapporto dell'APAX, l'associazione britannica che sovrintende ai metodi di pagamento, ha calcolato che nel 2015, per la prima volta, gli acquisti effettuati in contanti nel Regno Unito verranno sorpassati da altre forme di denaro virtuale. E il nonno assegno non è contemplato. Anzi, nel 2007 ha fatto registrare meno 10%. Ormai, stando all'APAX, gli assegni ammontano in Gran Bretagna solo al 6% delle transazioni immateriali, quelle che escludono i contanti. E ci mancherebbe. I sudditi di Sua Maestà, infatti, hanno a disposizione un vasto arsenale di diavolerie digitali, a partire dall'ultimissima carta di credito contactless della Barclays. A partire da quest'anno è dunque possibile effettuare pagamenti sotto le 10 sterline avvicinando la carta a un lettore magnetico. Niente firma, niente PIN. La trasmissione crittografata fa tutto da sé. Addio quindi alle code dal tabaccaio, dal giornalaio o in metropolitana. Il tempo, d'altra parte, è denaro. Non è un caso, dunque, che gli assegni, sempre di più, non vengano accettati come validi metodi di pagamento. Costano molto da incassare e non sono sicuri. I ventenni, stigmatizza Sandra Quinn di Apax, non sanno cos'è un libretto degli assegni. Ma non è tutto. Presto, infatti, nel Regno Unito potrebbe diffondersi l'uso del cellulare. Il numero di telefono, una volta collegato al conto bancario, vale come quello della carta di credito, come metodo di pagamento alternativo all'assegno. Invece che compilare il cedolino da staccare all'idraulico, basterà inviare un SMS. Niente paure, invece, per banconote e monete, il buon vecchio contante. È sostenuto da una domanda che non mi pare in caduta, ha spiegato Andrew Bailey, il capo cassiere della Banca d'Inghilterra. Anche perché, come fa notare Richard Dodd, della Confcommercio britannica, in tempi di crisi il contante è più facile da tenere sotto controllo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mattia Bernardo Bagnoli «Dopo 350 anni, addio all'assegno», dalla Stampa del 17 febbraio. Letture di Radio 24. Le leggi razziali del 38 non hanno nulla a che fare con gli attuali provvedimenti sull'immigrazione, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Se davvero l'Italia, come denuncia Don Sciortino, si sta avviando verso qualcosa che assomiglia alla promulgazione di leggi razziali, allora l'Europa dovrebbe metterla severamente sotto procedura di osservazione. Altro che l'Austria di Haider. Se davvero questa maggioranza si sta smarrendo in una deriva razzista, come pare suggerire Veltroni quando va in appoggio a Don Sciortino, ogni riforma condivisa avrebbe un significato perverso. Ogni dialogo andrebbe bruscamente interrotto. Ogni fair play abbandonato. Non si dialoga, non si interloquisce, non si condivide niente con un'accolita di razzisti. Se Roberto Maroni fosse la versione contemporanea del Bottai che per conto del regime nel 38 cacciava i bambini ebrei, come minimo andrebbe messo al bando dal consorzio civile. Se invece non lo è, e non lo è, i suoi avversari dovrebbero deporre l'arma rozza e grossolana dell'iperbole propagandistica, dei paragoni fasulli e impropri, delle allusioni storiche che deformano la storia e sviliscono la cronaca. È sorprendente come intellettuali di prestigio, Adriano Prosperi e pugnaci giornalisti, Gad Lerner, solitamente così sensibili all'incomparabile unicità dello sterminio ebraico di cui anche le leggi razziali furono il tragico preludio, si lascino trascinare ad un uso così politicamente fuorviante della storia. La facoltà per i medici, la facoltà, non l'obbligo, di comunicare la presenza di clandestini bisognosi di cura può essere una misura che incoraggia la delazione, per di più inutile se non controproducente, ma additarla come primo passo verso la discriminazione attiva di una razza o di un'etnia appare un non senso accettabile solo come frutto di un eccesso di foga polemica. L'estromissione degli ebrei dalle scuole, dalle università, dalle accademie, dall'amministrazione dello Stato gettò il fascismo nell'orrore di una persecuzione sistematica e non ha nulla di qualitativamente simile a una congerie affannosa di provvedimenti che tutt'al più segnalano lo stato di confusione e di caos impotente in cui versa la politica italiana di contenimento dell'immigrazione clandestina. Proclami tonitruanti e manifesti cattivisti non reggono il paragone con il divieto di contrarre matrimoni con gli ebrei, con l'obbligo di ritirare la firma di autori ebrei da libri e manuali, con la proibizione della proprietà di aziende, terreni e fabbricati urbani di dimensioni considerate incompatibili con l'appartenenza alla razza ebraica. Ciò che fu l'essenza delle leggi razziali del 38. Assecondando paragoni di tale smisurata infondatezza, Zapatero dovrebbe essere incriminato per crimini contro l'umanità per le stragi di migranti a Ceuta e Melilla, e dovremmo dedurne che anche la Germania, in cui la norma messa sotto accusa è in vigore da anni, sta già sprofondando in una nuova notte razzista. Oppure, al contrario, dovremmo correre il rischio di un'implacabile banalizzazione di uno dei capitoli più foschi della nostra storia. Il significato storico del razzismo italiano ne verrebbe fatalmente ridimensionato, ridotto a routine, a ripetizione ossessiva di uno stesso scenario. L'opposto del risultato che vorrebbe ottenere chi, in questi giorni, lancia allarmi sproporzionati, un risultato catastrofico. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, L'ossessione clandestina, dal Corriere della Sera del 16 febbraio. Secondo i dati diffusi dall'Università Cattolica, solo 4 cattolici su 10 praticano il sacramento della confessione e ci sono notevoli differenze tra i peccati al maschile e quelli al femminile. Niente parità sessuale in confessionale. Uomini e donne peccano in modo diverso, sostiene il teologo del Papa sull'Osservatore Romano. In materia di peccati, per gli uomini il più difficile da fronteggiare è quello della lussuria, poi gola, accidia, ira, vanagloria, invidia e avarizia. Mentre per le donne il più pericoloso è la vanagloria e a seguire l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, evidenzia il teologo della Casa Pontificia, padre Wojciech Giertych, secondo il quale, quando si guarda ai vizi capitali, dal punto di vista della difficoltà che creano, si vede che gli uomini li sperimentano in modo diverso dalle donne. Per il teologo del Papa, l'osservazione lo conferma. Nei conventi le suore spesso vivono invidiandosi per piccole cose, ma tutte vanno in cappella per cantare i vespri. I frati, invece, spesso non si interessano gli uni agli altri. Non sono gelosi, ma quando il campanello suona, in pochi partecipano alla preghiera comune. Secondo padre Giertych, dal punto di vista delle conseguenze sociali o della complicazione della vita personale, i peccati contro la castità sono pericolosi, anche se ogni individuo interpreterà le cose diversamente. Per qualcuno i piaceri sessuali saranno i più importanti, altri saranno più attratti dalla ricchezza o dal potere. E aggiunge: diversi contesti culturali generano diverse abitudini, ma la natura umana è la stessa. La distinzione fra peccati al maschile e al femminile compare proprio mentre la penitenziera apostolica, il Dicastero Vaticano delle Confessioni, che ha competenza su tutto ciò che riguarda il foro interno, compresa la concessione delle indulgenze, lancia l'allarme per la crisi del sacramento. Il 30% dei fedeli non ritiene necessari i confessori, il 10% li considera un impedimento al dialogo con Dio, il 20% ha difficoltà a parlare di propri peccati. Inoltre, la penitenziera ha recentemente allungato la lista dei peccati mortali, aggiungendo le manipolazioni genetiche, gli esperimenti sulla persona, l'inquinamento ambientale, la droga, l'ingiustizia sociale, le sperequazioni sociali, causare povertà, la ricchezza eccessiva. Ma la differenza maschio-femmina fa discutere anche nella Chiesa. Le differenze di carattere tra uomini e donne sono state tracciate nel corso dei secoli, afferma il teologo Gianni Gennari. Soprattutto nei peccati sessuali è rischioso stabilire graduatorie e sfumature che sono più da psicologi che da confessori. Confondere il sacramento con il lettino dello psicoanalista è azzardato quanto pronunciarsi con pretese teologiche su questa materia. Infatti, se in Cristo, come insegna San Paolo, non c'è più né maschio né femmina, né giudeo né greco, significa che di fronte a Dio i peccati sono tutti peccati, senza distinzione di genere tra chi li commette, sottolinea Gennari. Perciò non spetta al teologo e al confessore cercare di distinguere un aspetto dall'altro, mescolandosi in cose che al sacramento della riconciliazione tolgono il senso di libertà del perdono. Intanto, secondo l'ultima ricerca della Santa Sede, dal 1998 ad oggi sempre meno fedeli riconoscono i motivi teologici e il valore della penitenza. Crisi e abbandono. Indagini sociologiche e valutazioni pastorali dicono che il sacramento della confessione non gode di buona salute. Secondo i dati dell'Università Cattolica in Italia, solo 4 cattolici su 10 si confessano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giacomo Galeazzi, Finché peccato non vi separi, dalla Stampa del 17 febbraio. Andare in pensione significa anche rompere con la vita precedente. E per evitare la paura del vuoto si realizzano appositi corsi che preparano ad affrontare il momento del distacco. In Inghilterra, in Irlanda, nei paesi scandinavi e stranamente anche in Giappone è in uso nelle aziende organizzare corsi per pensionandi. A volte si modula anche il lavoro per un'uscita progressiva, via via ore e responsabilità in meno, dice Giorgio Vitrotti. Insieme con Alberto Di Suni è da tempo attivo a Milano in quella che, sorta nel 1998, è certamente la prima scuola ad hoc in Italia, l'Associazione Nestore. Così risolvendo il loro stesso problema del dopo pensione, come non hanno difficoltà ad ammettere con un sorriso. Il nome è preso dal vecchio re di Pilo, che nell'Iliade è molto ascoltato per la sua saggezza. Con questo nome è nato dapprima un progetto, dentro un'iniziativa e con il finanziamento dell'Unione Europea, poi un corso analogo è stato per 2 anni condotto per conto del Comune di Milano a favore dei propri dipendenti pensionandi. A scuola perché? Per gestire il cambiamento e non viverlo passivamente. Andando in pensione non si perde solo il lavoro. Per molti versi si tratta di una rottura con la vita precedente, rottura di abitudini e di rapporti. Occorre rifletterci sopra, ammetterne l'importanza per riuscire poi ad andare oltre. Chi viene qui cerca soprattutto un senso di vita perduto insieme col lavoro. La spinta è il malessere. Sarebbe un corso per pensionandi, in realtà arrivano quando sono già nei guai. Smarriti, qualcuno depresso, il bisogno di sentirsi di nuovo parte di un insieme. Cercano l'abbraccio, finisce che si creano gruppi per affinità che poi restano. Nel corso, da 12 a 20 lezioni, si lavora sulla memoria, sull'autobiografia. È terapeutico, si impara ad aprire i forzieri delle memorie individuali e a sottrarre alla dispersione, all'oblio o alla svalutazione ricordi ed esperienze preziose. Si rafforza e si arricchisce in tal modo il senso di identità e di dignità umana, che traballano molto con la perdita dell'impiego. Si fa il bilancio delle proprie competenze, non solo quelle lavorative, utili per costruire un progetto di vita. I corsi, dunque. Ma chi si presenta alle iscrizioni? Soprattutto donne. Hanno più interessi e hanno vissuto un'esistenza con più sfaccettature degli uomini, è la spiegazione. E hanno pure il coraggio di ammettere di aver bisogno. Quanto alle ex attività, soprattutto professionisti e dirigenti. Quelli che vorrebbero morire abbrancati alla loro scrivania. Ex operai no, non ci arrivano se non raramente. E nemmeno artigiani. Avendo un'attività indipendente, la metà degli artigiani continua a lavorare dopo la pensione. Come una volta, quando il lavoro in mano ai singoli procedeva e si spegneva secondo il corso fisiologico dell'esistenza. Basti pensare al mondo contadino. Il progetto Nestore prevede anche corsi di orientamento al volontariato e una parte intitolata per l'appunto «Che cosa farò da grande?». Scuole sul genere della Nestore, che è un'associazione non profit, sono sorte in molti altri paesi, ma con chiari fini di lucro. Emerso nelle nostre società un nuovo bisogno, il mercato ha prontamente risposto. Così, il bisogno di sdrogarsi dal lavoro alimenta un nuovo business. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Serena Zoli, Il lavoro smobilita l'uomo, la rapida svolta dall'orgoglio alla paura in una società precaria. Longanesi Editore, 224 pagine, 14,60 euro.